sfiora appena la tua mano, un brivido mi bacia la pelle, come una grande pioggia di stelle. Sei fantastica, lo sai. Nemmeno ti sfiora l'idea che forse un giorno sarai solo mia. Stregato da quel tuo talento, è una cosa che mi porto dentro. Sei un sogno ormai. Pioggia di stelle su questo palco, una tra queste sei tu. Quella passione nella tua voce, nei tuoi occhi una luce. Pioggia di stelle, pioggia di te, sei un abbaglio per me. Calano luci, fuori le voci, ora tocca a te. Se penso a cosa darei per intonarmi accanto a lei, provare un vero sentimento, sentendo solo la magia del canto. Sei una favola, lo sai. L'abbraccio di questo silenzio, della gente stupita qui attorno, mentre tu voli verso l'immenso, con l'orchestra che ti segue a passo. Sei unica e di più. Pioggia di stelle su questo palco, una tra queste sei tu. Espressione nella tua voce, nei tuoi occhi una luce. Pioggia di stelle, pioggia di te, sei un abbaglio per me. Calano luci, fuori le voci, ora tocca a te. Gente, strano che sento a distanza il profumo di te, ma tu non lo saprai mai.